Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Sapete dove l'ho trovata? A Marina del Corvo, sulla spiaggia, in compagnia di un mascolo era, assieme ad altri due. No, c'è due mascoli? No, un mascolo e una femmina, bottana come lei. Va bene, va. Bene, bene, fascista, se lo meritava. Franguzzo, fammi favore, non ne parlare con nessuno, eh? Stai tranquillo, salutiamo, salutiamo. Francuzzo non parla, non ce lo dice nemmeno la moglie. Non ti deve preoccupare. Allora, vero è? Si Annunziatina mi disse che Anna l'hanno trovata con quel mascolo dentro una cabina del telefono. No! È vero che erano in quattro. Un'orgia fu, un'orgia. Meglio una figlia ignorante che bottana. Avete saputo? La comare dello zio Totò ce lo disse. Una famiglia finita. Guardate che era l'anno 1989. Eravamo in pieno dell'edonismo reganiano, anzi andati avanti molto. Era un periodo fantastico. L'Italia era incentrata sul Maurizio Costanzo Show. Sembrava impossibile a quelli più giovani. Ho sentito poco fa la nostra giovane stagista. Gli ho detto, ma tu ti ricordi del 1989? Le dice, no, ero nata quell'anno. E sta qui, fa esattamente il lavoro mio e forse anche meglio. Io nel 1989 ero a Licata, facevo radio e dovevo fare un collegamento in diretta con la piazza di Licata, che era inviperita. La piazza di Licata ricostruita male in questo brutto film, ahimè, uscito assieme a un libro che fece epoca in quell'anno. Era il libro Volevo i pantaloni di una giovane ragazza esordiente, Lara Cardella, che aveva mandato un suo testo per caso a un concorsino della Mondadori. Era stato stampato il libro della sua storia e divenne un bestseller. 2 milioni di copie vendute. Tradotto ovunque, persino in Turchia, in Brasile, in Corea. Tutti parlavano di Lara Cardella. Perché? Perché Costanzo l'aveva chiamata al suo salotto a parlare un po' di volte e questa sparuta ma agguerrita ragazza siciliana che raccontava dei suoi concittadini che la giudicavano una poco di buono perché si metteva la minigonna o perché mangiava il gelato in pubblico. Nel 1989 a Licata una ragazza che leccasse il gelato in pubblico veniva considerata una sorta di dimostrazione di predisposizione a pratiche innominabili. Beh, io perché quello era il mio mestiere, allora andai e registravo, devo fare una diretta dalla piazza di Licata. La gente era inviperita, arrabbiata, i sindaci, i vice sindaci, gli assessori, le autorità locali, ha gettato del fango, non siamo questo, siamo qualcos'altro, ma in realtà erano proprio quello e anche molto più di quello, perché erano tutti inviperiti, tutti mi raccontavano esattamente quello che sentite in questo stralcio di film, che in fondo Lara voleva soltanto difendere una sua figura di poco di buono, che aveva fatto cose innominabili, che ha gettato fango facendo credere che fosse arretrato quel paese, con invece una realtà avanzatissima. Costanzo, da grande marpione, furbacchione, cavalcò molto il caso Lara Cardella. Io quella sera parlai con Lara Cardella, la chiamai al telefono, dovevo fare la diretta dalla piazza del suo paese, la implorai di partecipare. Mi raccontò tutta la sua storia, passammo una notte al telefono, mi ricordo, io con questa ragazzina. Il giorno dopo naturalmente non si presentò. Poi partì. Poi andò verso la capitale, poi fece altri libri, divenne un'autrice di grido, di lei si parlò molto, fece una dolce vita romana che durò qualche anno, in cui frequentò tutti e il contrario di tutti. Poi Lara Cardella è sparita. Io l'ho sentita un paio di volte al telefono, sempre per ricordarmi di quella nottata, non l'ho mai vista, nottata in cui abbiamo parlato al telefono, mai sentita, e la rintraccio questa mattina. Questa mattina la rintraccio a Bergamo, dove insegna in un liceo bergamasco, dove non scrive più, non vuole più scrivere, pensa soltanto a suo figlio, che ormai ha una ventina d'anni, grande, e si occupa di ragazzi stranieri, dalla mattina alla sera. E tra poco parleremo con Lara Cardella, a tra un istante. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog. Cronache meridiane. Mi è appena arrivato un messaggio su Messenger di una mia amica e collega. Non ci posso credere che è La Cardella, uno dei libri più belli della mia vita. Me lo regalò mia madre, io avevo allora 13 anni e mi disse impara. Lara Cardella, buongiorno. Ciao Gianluca, scusami, sono un po' emozionata. Oddio. Per le cose che hai detto. No, sono le cose che hai detto. Hai un cuore allora, Lara Cardella. T'han tolto un polmone, ma hai conservato un cuore. No, non mi hanno tolto un polmone, solo un terzo. Un terzo, una volta anche le costole t'han tolto. Sì, un paio, vuol dire che mi serviva per dimagrire. No, senti, vabbè, una bello. Cosa. Avrei un vitino di Vespa invidiabile. Eh? Avrei un vitino di Vespa invidiabile adesso, senza costo. Sì, assolutamente sì. Senti Lara, però è un destino, io e te non ci dobbiamo mai vedere, ci parliamo soltanto al telefono, sono 27 anni che ci parliamo al telefono, una volta ogni 10 anni circa, ma non ci vedremo mai in faccia, comunque vabbè, pazienza. Ti ricordi quella sera ti chiamai, che era Licata, dovevi venire in piazza? Infatti volevo, se tu permetti, precisare un po' di cose. Fra quelle che hai detto prima, io ricordo benissimo quella sera perché ho pianto con te, non volevo partecipare, avevo tanta paura, però poi io ho partecipato. Avevi partecipato? Ero alla radio. Sì. Al telefono? Ero a telefono, ah, alla ecco, radio, sì. Sentivo te che gridavi e dicevi lasciatemi respirare perché ti stavano tutti circondando. Sì, ero, cioè, avuto un'impressione proprio brutta, ero circondato dalla folla quasi soffocato, sì, è vero? Sì. Ricordo questo e io che ero con una mia amica la supplicavo di intervenire in qualche modo in mio aiuto perché era la persona che mi ero portata appresso per dire sì, le abbiamo provate assieme queste cose, entrambe siamo state vittime di quegli insulti, di quel modo di provarci e la mia amica stava zitta e sei stato tu a rimproverarla, sei stato tu a dirle ma non parla? Lei continuava a tacere. Beh, tu hai più memoria di me, veramente ne ho fatte talmente tante che manco me lo ricordavo, pensa un po'. Mi ricordavo sì. La tua assenza fisica, quello sì, perché... Quella sì, ma ero in collegamento da Roma. Ma fu una fortuna che non ci fossi perché era una piazza molto arrabbiata, mi ricordo. Ma poi molto. Comunque sono andata fisicamente a Licata con Felice Cavallaro, abbiamo fatto una passeggiata e vabbè c'erano delle ali di folla. Mentre noi passavamo e mi gridavano puttana, puttana, puttana, puttana, continuavamo a camminare. Ero lapidata dalle parolacce. Ma poi puttana, e alla poi, fine che avevi fatto di puttanata? Fammi capire. Avevo scritto quello che avevo scritto, ma non era quello il problema. Più che altro avevo parlato in televisione. E lì, sai, non sono molto d'accordo con la tua definizione di marpione per Costanzo. Beh, fu marpionissimo. Grazie, tu eri al centro, tu eri bambina. Fu bravissimo perché colse qualcosa no, che ancora non... mi ha molto difeso. Ma mi certo ha ti difeso. Sempre, ma sì! Ma non soltanto lì, anche quando hanno cercato di togliermi mio figlio, Costanzo mi ha sempre difesa in un modo che io non dimenticherò mai. Ma questo è l'aspetto umano. Dal punto di vista di mostro televisivo, mostro in quanto conoscitore, fu bravissimo. Portò alla ribalta del paese qualcosa che sembrava appartenere a quei documentari che guardavamo degli anni 50. L'Italia in quegli anni lì sentiva evolutissima, sentiva un paese proiettato verso un futuro fantastico. E lui ricordò che ancora esistevano queste cose. E portando te nel grande teatro del Costanzo Show, dimostrò che ancora esistevano. E la reazione che ci fu la reazione che ancora esisteva con l'Italia. Ma la cosa, facciamo un salto velocissimo, così arriviamo subito all'attualità. Tu allora ricordaste all'Italia che viveva in un futuro di fantastiche telenovelas, di Dallas, di Dynasty, di soldi che sembravano arrivare per tutti, di donne favolose, di uomini fantastici, di successo per tutti. Ricordaste che c'è ancora questa sacca, che una ragazza non poteva mangiare il gelato per strada a Licata, che una ragazza subiva ancora attenzioni sessuali in famiglia e tutti stavano zitti, perché quella è la parte più faticosa del tuo libro, non tanto il pregiudizio ma quello che accadeva nella famiglia e non si poteva dire. Sono passati 27 anni, tu adesso stai ancora una volta cavalcando una sacca d'Italia che poco si conosce e di cui si parla poco, ma nessuno in questo momento parla di te. Tu sei arrivata a Bergamo, l'antitesi in ogni luogo comune rispetto a Licata, ma non stai in una scuola dove stanno bergamaschi, stai in una scuola dove stanno ragazzi stranieri. Racconta questa cosa qua velocemente. Allora, non sono tutti stranieri, cioè è una scuola aperta a tutti. È chiaro, non esistono le scuole per soli stranieri, però ce ne stanno tanti. Siamo la scuola, il Pesenti, tu hai detto liceo, in realtà è un istituto professionale che è frequentato, è quella con il più alto numero di stranieri. dire che è vittima di tantissimi preconcetti. Io assieme a delle mie colleghe abbiamo un lavoro immane da fare, perché il razzismo che c'è, che è fortissimo a Bergamo, ma parlo di Bergamo perché io vivo a Bergamo adesso, noi lo dobbiamo combattere ogni giorno. Lo facciamo con i mezzi che ci vengono dati, cioè con le lezioni, e va bene, però voglio dire, cioè, non è quella la mia idea di scuola, non è quella la nostra idea di scuola. Noi con il teatro soprattutto cerchiamo di far esprimere a questi ragazzi e portare fuori tutto il bello che c'è in loro, perché non è questione di tollerarli. Io sento molto, sì, vabbè, però sono buoni, il cane è buono magari, però un essere umano non puoi dire, sì, io li conosco, ce n'è qualcuno buono. Io questa falsa bontà, questa tolleranza nei confronti dei migranti non la sopporto, mi fa quasi più schifo del razzismo, quello gridato. Fammi capire meglio. Allora, fra i tuoi ragazzi ci sono ragazzi di varie provenienze, più o meno descrivimi le provenienze, così capiamo anche di cosa stiamo parlando. Tutte. Di tutti i tipi? Tutte. I nostri ragazzi sono Tunisia, Marocco, Egitto, tutto quello che... Ma sono italiani, sono nati in Italia oppure ancora sono, diciamo, la prima alcuni ondata? Alcuni sono anche profughi, hanno alle spalle delle esperienze terribili, di cui magari spesso si vergognano, storie di povertà di cui si vergognano, e noi dobbiamo stare attenti a non urtare la loro sensibilità. Sono ragazzi però ricchissimi, sono loro che ci insegnano le cose. Loro hanno ad esempio un interesse per la lingua italiana, che poi è quello che insegno io, l'italiano, che i nostri ragazzi italiani non hanno, quindi va a finire che sono loro che conoscono meglio l'italiano, perché se lo studiano, mentre i nostri no. Quindi tu già prevedi che ci sarà un'ondata generazionale di persone che sapranno benissimo la nostra lingua, conosceranno ancora meglio la nostra cultura, la nostra civiltà, ma la loro origine e la loro provenienza sarà di paesi lontani? Sono di paesi lontani, e quello che noi vogliamo come scuola è che ci arricchiscano. Siccome la geografia con Gelmini è stato deciso che non si deve più sapere praticamente, sono loro che ci insegnano la geografia. Ma perché è vissuta? Perché c'è il ragazzo che magari è stato, mentre scappava, ha girato diversi paesi. I ragazzi, voglio dire, che vivono da soli, Allora, devo segnalare al pubblico che siamo in diretta, non ve lo scordate. Il numero è sempre 800240024. Chi di voi avesse curiosità, interesse, ricordi di quello che ha letto, come l'amica mia che mi ha scritto, o qualche domanda da fare nella versione attuale, Lara Cardella, siamo qui a ricevere le vostre telefonate. Mi spieghi questa tua metamorfosi però, Lara? Loro sanno che tu eri una scrittrice famosa, nota, invidiatissima, mi sembra che il tuo libro ha venduto più copie al tempo dei grandi classici della nostra letteratura, e improvvisamente adesso sei diventata un'insegnante come tante. L'insegnante media si lamenta del fatto che in fondo noi facciamo un gran lavoro, nessuno si accorge di noi, nessuno ci segnala. Tu hai detto che hai abbandonato la voglia di scrivere, non farei più la scrittrice, e ti mancherà questa tua dimensione pubblica però? Allora, francamente no. Allora, mi hai chiesto prima se i ragazzi sanno che io sono una scrittrice, eccetera. Io cerco di non farlo sapere, perché c'è un conflitto di interessi, secondo me. Io propongo spesso ai ragazzi di leggere un libro in classe. Non voglio che vadano a leggere il libro perché così la profe mi dà un voto più alto, non voglio, perché magari c'è il ragazzo che non se lo può permettere, magari c'è il ragazzo a cui non frega niente, c'ha ragione, per carità di Dio. Quindi non voglio che lo sappiano, non voglio che mi vedano come diversa. I tuoi colleghi? Insegnante. I tuoi colleghi? Non posso, i miei non colleghi sapere. Invece lo vanno a dire, ecco, sono dei disgraziati, lasciamolo dire, perché loro... mi apprezzano molto e quindi dicono perché è un valore aggiunto non lo nascondere. Io non la penso così, allora mi rispettano e cercano di non farlo sapere. Scrivo ancora, però scrivo per il teatro, appunto, il nostro. Beh, ancora un pochino, però lo fa il personaggio. Ho letto una tua intervista, dove ti vanti, ho avuto 300 uomini. Le tue colleghe, ma non è vantarsi. Le tue colleghe, poverine, avranno avuto se no il marito. Pensa a te quanto ti invidiano. Ma perché? Ma cioè, ragioniamo, 300 uomini significa soltanto manco un anno. Sì, no, fatti i conti prima, quanti anni sei stata a Roma, quanti ne avevi avuti all'anno? Quanti anni sei stata a Roma? Dopo... A Roma sono stata, dunque, 3 anni. Infatti, il conto l'ho fatto io. Mettiamo 300 giorni utili, togliendo i giorni in cui non ti puoi... alla fine non sono tanti, dai, non... vuol dire uscire... È quello che continuo a dire. Avere un uomo ogni 3-4 sere che si esce, non è che sia poi tutta sta cosa, uno se non vuole farsi un uomo fisso, non è niente di che. Beh, mi fermo un attimo, dare la linea a delle informazioni intermedie, resta lì, fatti un respiro, ci vediamo fra un secondo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Sono collegato con Lara Cardella, la scrittrice che fece parlare tutta Italia, ma anche gran parte del mondo, perché il suo libro è stato ampiamente tradotto, con Volevo i pantaloni, 27 anni fa. C'è stata una parabola della sua vita per cui oggi si trova a Bergamo, insegna in un istituto tecnico, insegna a ragazzi a parlare bene italiano, insegna soprattutto a ragazzi stranieri. Mi chiede un ascoltatore quali sono i punti in comune tra il mondo di Volevo i pantaloni e quello attuale, Lara. Allora hai toccato con mano la discriminazione, l'impossibilità di presentare un pensiero alternativo rispetto a quello corrente, a quello sedimentato. Trovi la stessa difficoltà a Bergamo su piani diversi? Ti rispondo rispondendo anche, siamo il bello del mondo di oggi, ad Alessandro Gelain, che mi scrive su Facebook lamentandosi perché io ho detto che sono molto razzisti a Bergamo. Lui si lamenta dicendo: beh, non è vero, sono molto più razzisti da un'altra parte. Parla del, credo, forse fa distinzione tra Bergamo alta e Bergamo bassa. No, non siamo a quel punto. Parlava dell'Alto Adige. Può essere, sì. Dopodiché si lamentava: ma chi sono io per dirlo? Dice: non sono mica uno scrittore famoso. Allora, il punto, io l'ho detto subito, rispondo quindi anche ad Alessandro. Io ho detto: parlo di Bergamo perché vivo a Bergamo. Io penso sei fra i primi 5 scrittori che hanno venduto più libri italiani, o sbaglio, qualcosa del genere? Non lo so, può darsi. Mi auguro che ci siano altri che abbiano venduto di più. Comunque, quindi io parlo di Bergamo così come quando ho parlato di Ricata ne ho parlato perché io conoscevo quella di realtà. Poi chiaramente se in un paesino del Veneto davano fastidio alle ragazze, cioè, io non potevo saperlo, io potevo soltanto raccontare quello che vedevo. Io non parlo di cose di cui non conosco. Allo stesso modo parlo di Bergamo perché il razzismo io lo vivo e lo vivo sui miei ragazzi. I miei ragazzi, mi è successa questa cosa sabato, ero a scuola, oggi è il mio giorno libero, per questo che non sono lì, mi succede che un ragazzo nero vuole aprire la finestra perché c'è puzza, sono in 23 in classe, c'hanno ragione. C'è l'aria consumata, diciamo. Sì. Hanno ragione, tra l'altro proprio c'è un provvedimento della scuola che prevede che i ragazzi ad ogni cambio di ora debbano aprire le finestre, le nostre finestre non si aprono del tutto, il ragazzo voleva aprirla per cambiare aria, l'ha chiesto, c'è stata un'imbrata che gli ha detto: c'è puzza, lavatevi. Ora voglio dire, probabilmente ad uno bianco non l'avrebbe detto, il ragazzo è rimasto così, cioè queste cose succedono, non è che me le sto inventando io. Allora non è questione io sto infamando Bergamo di nuovo, siamo lì a parlare, io infamavo Licata, non è così, io dico di quello che vedo, poi vedo anche che invito, adesso avremo un'asta di beneficenza, invito il sindaco di Bergamo e il sindaco di Bergamo mi dà la disponibilità a venire. Cioè, ci sono delle cose belle, ma ci sono anche quelle brutte. Cioè, Giorgio Gori, che è anche uomo di televisione, quindi figuriamoci, verrà sicuramente la tua asta di beneficenza e sono contento. Sicuramente non lo so ancora. Beh, ormai l'hai detto anche alla radio, come fa a non venire più ormai? Deve venire per forza, è chiaro, ma lo farà volentieri e sarà anche un bel momento e farà bene a tutti questa cosa qua. È chiaro che non si senta la coda di paglia che non è coinvolto. Se a me mi dicono, lo dico tante volte, tutti i giornalisti sono degli schifosi vassalli del potere, non mi offendo, dico ma state generalizzando, io non mi sento tale. La stessa cosa l'amico Bergamasco che ti scrive su Facebook e che dice non è vero che siamo tutti razzisti, non dipenderà da lui. Lara Cardella parla del microcosmo in cui è vissuta, nel descrivere non posso parlare, cioè, dell'Alto Adige, ma non giustamente ci sono. Ma come ha raccontato il corso di Licata, della gelateria di Licata, e improvvisamente è diventato un argomento di discussione nazionale, parli adesso di un liceo di Bergamo, è limitato la tua esperienza, non credo tu voglia parlare in assoluto, in senso di principio. Vedi nel tuo liceo ogni giorno queste cose e racconti ogni cosa. Ferma un attimo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io... bene o male, ho ascoltato un po' il discorso della dottoressa. Io ho la fortuna di fare un lavoro dove giro veramente spesso varie regioni e vari ambiti. Ho anche viaggiato parecchio all'estero, ma la mia domanda è, ma non ci stiamo dimenticando di noi, del nostro patrimonio culturale? Lei, la professoressa, prima ho sentito nel suo liceo, sono tutti comunque di tanti varie parti del mondo e hanno subito anche delle disgrazie che noi nel nostro mondo occidentale non viviamo. Ma è brutto sentirsi dire da italiani che persone che arrivano da altri paesi, quindi potrebbero loro inserirsi alla loro cultura, non un domani ci insegneranno a noi, parlano bene la lingua meglio di noi, la conoscono in modo migliore di noi. Cioè è una cosa avvilente, io ho 29 anni. Cioè, Alessandro, avvilente sì ascoltarlo, che abbiano più attenzione, più cura, più voglia di parlare bene italiano gli stranieri, per cui questo diventa uno strumento di affrancamento nella loro condizione subordinata. Fra due generazioni quei ragazzi saranno i laureati, saranno i dirigenti del nostro paese, avranno studiato e saranno coltivati. Il problema io lo rovescerei: perché i nostri figli sono così svogliati, non reputano più di mettersi in gioco, non reputano più di doversi coltivare? Perché evidentemente pensano che gli obiettivi da raggiungere sono già raggiunti in partenza. Lei capisce che il fuoco acceso dietro il sedere stimola. Sta dando un'immagine, secondo me, la Cardella, che dovrebbe farci riflettere, ma non spaventarsi. Dovremmo dire ai nostri figli: attenzione, se il ragazzo cinese, se il ragazzo africano, se il ragazzo dell'est studia molto più di te, si impegna molto più di te, un domani sarà lui il dirigente sulla tua testa e tu avrai un ruolo di difficoltà. Non è detto che adesso è una lotta alla sopraffazione, ma mi sembra quello che dice è uno stimolo a riflettere, non è avvilente. Se è così, è una realtà di fatto, non vedo differenza. Giuseppe? Sì, pronto? Sì. Mi sentite? Sì, poi risponderà Lara Cardella punto per punto a tutti gli ascoltatori. Adesso li faccio parlare. Giuseppe, sì. Sì, io sono catanese e mi ricordo benissimo quei giorni, quel periodo in cui uscì il libro coinvolto. Ovviamente, quanti anni ha lei, Giuseppe? Così io ho 47 anni. Ricordo anche il riverbero che ebbe nella comunità, perché le cose negative e positive che ne derivarono furono tangibili. E quali furono? Perché, quali furono? Ad esempio, si spalmò su tutta la regione quel tipo di modi di fare, che ovviamente è Licata è una realtà, già Catania è un'altra. Positive perché in ogni caso contribuì a far emancipare molto la società. Io sono un parente a Niscemi, che è un paese di vicino Licata, e ricordo da bambino le stesse cose che diceva Lara erano vere, verissime. Rispetto a Catania c'era un abisso. Tornai circa 11 anni fa a trovare i parenti di mio padre e trovai una Niscemi totalmente cambiata, con ragazze scosciatissime, vestite all'ultimo grido, lounge bar, una movida incredibile. Nell'arco di 20 anni, voglio dire, le cose, forse anche grazie a queste denunce, sono cambiate. Ma ricordo anche le cose negative. Il film, ad esempio, è stato una specie di pantomima, una banalità anche nella traduzione stessa del linguaggio siciliano. Non lo dica Lara Cardella, che pubblicamente disse che il film non l'aveva mai rappresentato. No, io Lara Cardella mi No, no, nel senso siamo tutti d'accordo, fu un brutto film. Bruttissimo, anche il linguaggio, tipo tradotto dal sardo, dire me lo dovevi, come se parlassimo tutti col verbo dopo il soggetto, dopo il complemento oggetto. Comunque niente, volevo segnalare che effettivamente per noi fu sicuramente una denuncia che servì a cambiare i costumi, specialmente nell'entroterra siciliano. L'altra cosa negativa è che secondo me si spalmò tutto questo tipo di stile di vita anche su tutto il resto della Sicilia, che ovviamente non è così. Riguardo al razzismo, nelle scuole avrei tantissimo da dire, anche perché ho insegnato al nord, come a Milano, ma se le vuole... Aggiunga, come no, siamo qua, perché... No, è vero, esiste tantissimo... È un arco di esistenza abbastanza complesso, quindi anche la seconda parte è importante. Certo, insegno alle medie, ho insegnato sia a Como l'anno scorso che a Milano, e il razzismo è veramente tangibile, apparentemente superato, ma basta un minimo cavillo per attaccare subito i ragazzi neri. E addirittura ho constatato anche che esistono ancora le lobby tra i figli dei meridionali e i figli dei locali, specialmente nella Brianza. Questo l'ho constatato, appunto, che è nato quasi in classe, una specie di rivolta tra persone che poi si frequentano anche tra famiglie. Quindi una cosa che mi ha sconvolto ancora a distanza le emoji operai negli anni 60 e 70, sapete che le seconde generazioni ancora vivono di questo peso, di questa dicotomia tra nord e sud. Immaginiamoci tra africani ed europei. Solo una battuta, Giusy, perché poi lascio tutta l'ultima parte alla Cardella per commentare. Ascolterà anche Giusy. Giusy, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono molto emozionata perché proprio in questi giorni si metteva a posto i libri e ho trovato il libro di Lara. Allora, sono siciliana anch'io come Lara, abito a Firenze da tantissimi anni, ho una figlia mista, da non sposata, e il razzismo, mi creda, adesso mia figlia ha 13 anni, cavolo. Mista, che vuol dire mista? Che l'ho fatta con un africano. Ah, sì. E non sono sposata, guardi, per cui mi vedono non tutti bene, perché... Quindi, diciamo, nell'accezione comune l'ha fatta per sola lussuria e basta. Accidenti, certo. Per qualcuno l'ha assolutamente così, per cui purtroppo a mia figlia tante volte gli hanno dato della negra. Allora, ferma un attimo, Giusy, siccome la sua storia è interessante, voglio farla parlare con Lara. Si fermi un attimo, respiri anche lei, diamo la linea per pochi secondi e poi parlerà proprio con Lara Cardella della sua storia. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Il cotè più divertente, le reazioni ai programmi radiofonici sono gli SMS. E sto studiando il tracciato antropologico di chi scrive SMS rispetto poi a chi telefona e parla. Se Bergamo è razzista, torna a casa, non ci mancherai, dice Claudio. Ma lasciatela esprimere, siate leggeri, lasciatela una persona con anche l'estro della scrittrice, oltre a quello dell'insegnante, di persona che si è sempre presa le responsabilità delle sue scelte, dica quello che pensa, non ve la prendete. Possibile, mica nessuno vi ha mai detto che vostra sorella è stata vista con altri quattro uomini dentro una cabina telefonica. Statevene tranquilli. Se puzza non si può dire perché sono neri. Questa se ne vada alla mia Bergamo se non le piace. La mia Bergamo. Mia non è nemmeno la sede dove sto seduto. Uno può pensare che la città sia sua. Nicoletti, smettete di volerci insegnare qualcosa. Presentate solo la realtà. Poi qualcuno mi dice che oggi è la giornata contro il diabete. Basta, melassa con Lara Cardella. Vabbè, possiamo parlare anche del diabete. C'è una trasmissione dedicata alla salute che mi anticipa. Però adesso volo fare un'operazione che mi interessava. Mi ha chiamato Giusy, ascoltatrice siciliana, macchiata di tangibile onta che si potrà dire tutta la sua vita, perché ha una figlia o un figlio, Giusy? Ho capito. Una figlia, adesso ho quasi 14 anni. Una figlia di 14 anni in cui è palese il segno che la madre l'ha ottenuta con un ragazzo di colore, e quindi vive una vita ancora segnata da questo suo gesto, proprio perché non si è sposata. Ma un po', a volte io lo sento, ma non è che lo sento perché mi faccio delle fantasie, perché comunque anche attraverso il silenzio si sentono determinate cose. Le ripeto, ora ultimamente non è quasi più successo, ma insomma a scuola elementare non so quante volte gli hanno dato della negra, alle medie uguale, per fortuna ho avuto degli insegnanti che sono intervenuti, ma con i genitori ci si parla molto male, mi creda, perché io sempre intervenivo, ci mancherebbe, però insomma sopravviviamo e siamo felici. Resta lì Giusy, Lara Cardella, comincia da Giusy e delle risposte ai tuoi ascoltatori, comincia da Giusy che puoi anche parlarci, qui che ti ascolta. Ciao Giusy, innanzitutto un abbraccio forte forte forte anche da parte mia alla tua bambina. Adesso non fate la radio, non fate la radio privata di paese, dai, che vi date l'abbraccio. Dai, va avanti, dammi un punto rispetto al telefonato che hai sentito, il tuo collega insegnante che ti ha dato in parte ragione, l'altro che dice che in assoluto non si possono dire queste cose, e poi Giusy, testimone vivente che è ancora un paese complesso il nostro. Sì, io non capisco quelli che mi dicono vattene, no, io non me ne vado, io resto qua e le combatto le cose. Io ho sentito che... vabbè, l'abbiamo sentito tutti, che Trump vince le elezioni, mi preoccupo, non è che per questo dico no, adesso chiudo gli occhi e basta, io combatto, resto qui e faccio in modo che i miei ragazzi non subiscano più discriminazioni di nessun tipo, perché sono una ricchezza. Quello che bisogna mettersi in testa è che non è da tollerare il diverso, e parlo di qualsiasi forma di diversità, perché c'è il ragazzo nero, così come c'è il ragazzo disabile, così come c'è io che sono una immigrata, io vengo dall'Italia, vengo per lavorare, non mi dovete tollerare. Anche tu sei quasi africana, te, diciamo, nella percezione di una persona del nord. Certo che lo sono, ma sono fiera di esserlo. Sono fiera di essere siciliana e vi sto portando il mio contributo di essere umano, di individuo, che non deve essere schiacciato dalla maggioranza. Noi siamo italiani. Noi siamo italiani, non l'abbiamo scelto. Noi siamo italiani perché per caso siamo nati qui. Potevamo nascere qui. Poi capisci una cosa, Lara, cioè capisci, aiutami a capire assieme. La figlia di Giusy, che ci ascolta, che è una signora italiana, che ha avuto una ragazza che probabilmente è un po' più colorata rispetto ai suoi compagni di classe, subisce e ha subito palesemente le discriminazioni per il colore della sua pelle. Per dietro quel colore della pelle c'era una madre non sposata, una madre che ha avuto questa figlia con un ragazzo africano, e quindi già tutte le fantasie possibili sono aperte alla dissolutezza di questo gesto. Una madre che comunque ha il coraggio di allevarsi, portarsi dietro una figlia, farla crescere, farla studiare e via dicendo, eppure subisce discriminazione. Pensa quanto potrà subirla, immagino io, un ragazzo che è totalmente africano, figlio di nessuno, messo in una classe dove si sa benissimo che dietro le sue spalle nessuno ci sarà a difendere anche il diritto di avere una vita dignitosa scolastica. Per questo esistiamo noi. Per questo ci siamo noi docenti che li dobbiamo difendere. Non è che li possiamo, è un dovere morale. Noi li dobbiamo difendere, perché poi questi sono atti di bullismo. Perché comunque quando i ragazzi si lamentano perché in Svizzera c'è questa discriminazione verso gli italiani, devo dire che un pizzichino, proprio poco, ma di soddisfazione ce l'ho. Perché dico, ma vedete che cosa significa poi essere razzisti verso un'altra persona per il colore della pelle, per la nazionalità di cui arriva? Perché non pensate che è un individuo? Io non riesco a vedere differenza fra un ragazzo che è nero e un ragazzo che non lo è. Io non riesco a vederla questa differenza, se non da un punto di vista di persona. Sarai differente? Sì, ok. Però quelle differenze, cioè differente sono colpo d'occhio, ma in realtà la percezione a persona è uguale. Senti, mi dici una cosa, mi dici qual è la costante a tua vita, me lo fai capire in una parola, però da quando eri ragazzina hai fatto qualcosa che ti avrebbe dannato la vita, lo sapevi benissimo, poi in parte te l'ha anche salvata, o nel senso ti ha dato soddisfazioni, però ti ha messo sempre dalla parte di quella che comunque non può mai più fare un passo indietro, deve sempre stare dalla parte di chi comunque si trova in minoranza. Qual è la parola o il concetto che sintetizza tutta questa tua vita difficile ma diciamo intensa? Io credo sia stato quando da piccola ero soggetta quotidianamente in una scuola botte. E perché ti picchiavano? Ah no, perché c'era la suora che pensava fosse giusto così, aveva dei problemi evidentemente, e io soffrendo queste cose pensavo dentro di me è sbagliato, però godevo se quel giorno non ero picchiata io ed era picchiato un altro bambino. Questa cosa me la sono portata dietro come un senso di colpa che non finisce mai, perché pensavo che avrei dovuto invece difendere gli altri perché erano più deboli di me. Non so perché penso di essere più forte degli altri. Vabbè, diciamo che la forza che ti ha dato la suora che ti menava da piccola ha fatto sì che noi leggessimo i tuoi libri e sentiamo oggi con piacere, con soddisfazione e leggerezza questa tua testimonianza. Alla prossima chiacchierata, ciao.